Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Ascolto Radio 24 la mattina e sento Milan, Alino Milan. Ma fa venire l'ulata lì chi chiude sto cazzo di Alino Milan. But you were born in Italy. You try living a la moda, but when you drink whiskey soda, all you do is sing off key. You dance the rock and roll, you play the baseball. Ma sono di Bechamel, Chitalita, la rappresenta di mamma. You wanna be americano. Certo che allora ho parlato in inglese e io so parlare un inglese che mi è valso per decine di bilaterali che ho fatto, mi è valso per interventi pubblici, ho fatto dibattiti con domande e risposte, ho parlato l'inglese London School of Economics, però siccome io sono un ragazzo concreto mi piego al provincialismo italiano. If we truly want peace, conflict prevention and diplomacy must prevail without question over military solutions. Secondo lei, adesso sto andando a Parigi, lo spagnolo come parlerà? Spagnolo. Spagnolo, sì. I francesi in che lingua però parlano? Però in alcune sedi si parla in inglese. Sì. Io infatti parlo in inglese. Certo. Quello che voglio dire è che io sono un italiano fiero. Cioè io sono del paese di Dante, di Petrarca, di Pirandello. E vedere gli altri che parlano in tedesco, i tedeschi, in francese, i francesi. E in Italia c'è questa polemica qua. Mi sembra un po', mi scusi l'espressione inelegante all'ora di pranzo, un po' da sfigati. Ma sono di Bechamel, Chitalita, la rappresenta di mamma. You wanna be americano. Anche noi un po' sfigati lo siamo, caro Alfano. È da tre giorni che faccio votare con paletta l'inglese di Alfano. Intanto lasciatevi salutare Bogdan da Viterbo che mi scrive: buongiorno, dai Alessandro che mi devi riscaldare la giornata che si va col camion in mezzo alla neve al freddo, mamma mia che freddo, soprattutto voglio mandare un abbraccio a tutta la zona dei terremotati dove c'è un freddo e un gelo e si vive ovviamente in condizioni molto precarie. Cosa devo dire? Vi sono vicino col cuore, ecco, non è che posso fare di più materialmente se non mandarvi un grosso abbraccio. Spero che un po' di calore umano così si trasmetta, anche se non è vero. Vedi subito, c'è questo stalker che ogni giorno mi scrive: ma non hai altri argomenti che l'inglese di Alfano? Ma no, mamma mia ragazzi, ma quando vi sveglierete con un sorriso, quando vi sveglierete con un sorriso, forse avremo fatto un lievissimo passo avanti verso il futuro. Siamo veramente alla barbarie. Saluto, ormai il progetto è chiarissimo ed è ovvio, quello di far condurre De Luca, ce la faremo tra pochissimo. In una botta su. Tra l'altro, signori, De Luca che pare si fa non un partito ma una corrente per smarcarsi dal Partito Democratico, staremo a vedere, ci manca solo questa. Voglio subito salutare la nostra amica Veronica Gentini. Buongiorno. Come stai Veronica? Bene, tutto bene. Tu lo voteresti De Luca, partito di De Luca, in prima fila col matitone lì proprio. Scherzi, è la prima cosa che farei, no? Come dice Razzi, amico mio, dai Razzi a me, fatti una corrente tutta tua. È lui. È una versione un po' edulcorata di Razzi. La nostra Veronica è single o no? È single o no? Questa è la domanda del 2017. Scusate, che spettacolo, però... che spettacolo. Onestamente, onestamente. Esiste il segreto di Stato? Oh mamma mia, che maroni teniamo mi viene da dire. Il segreto di Stato? Cioè, sulla trattativa Stato-mafia ne hai mai saputo niente tu? Allora. Allora, va bene. Io proporrei una commissione parlamentare d'inchiesta e qui abbiamo, signori, alle 6:35 minuti un parlamentare di quelli che potrebbe aiutarci. Il nostro Maurizio Bianconi, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno Milan, buongiorno. Come va? Oh, devo dire... Molto bene. Ma sì, Bianconi, devo dire, gira questo video che mi ha anche mandato... Si è presentato alla ripresa del Parlamento con un improbabile messe di braccialetti al polso che sembrava un VU Cumprà di Arezzo e una... cos'era? Una sciarpona fiorata che sembrava un figlio dei fiori venuto dalle Hawaii. Ma Bianconi, ma come sei presentato? Deve sapere che i braccialetti al polso io li porto sempre. Sono di un notissimo artigiano fiorentino. Ma ne aveva quante ne ha? Ne aveva 40? Ne ha 8, 4 da una parte e 4 dall'altra. 8 braccialetti. Sì, sì, e sono belli, li porto volentieri. Quanto al furano lo porto abitualmente, poi me lo tolgo quando c'è la televisione. Ma che c'aveva dei garofanoni sopra? È un bel furano di cashmere, setoso, mi piace, io sono... E uno ha scritto come commento... Per come è vestito qui, questo è non solo è del gruppo misto, sì, sarà misto anche di qualche altra cosa. Infatti non vorrei fare un commento alla Cruciani, ma Cruciani allora direbbe, è un po' allora da Frocioni, direbbe. Allora io gli ho risposto, cara signora, vede, lei ha ragione perché mi parla del foulard, non ha poi visto i braccialetti. E poi non ha fatto caso che ora era moscio, e se poi mi vedesse anche camminare può darsi che qualche dubbio, i suoi dubbi siano più giustificati. E invece... Purtroppo è la contraddizione a questo, sono le mie tre mogli, le mie numerose, è la mia storia. Uno che tra l'altro non nasconde mica come Veronica Gentili le proprie relazioni, non c'è nulla da nascondere. Beh, no, le sono riservato, ma questa è la storia, ho un'età. E invece Veronica, mi piace solo però non essere come dice lei, perché se essendo un po' brutale, se fossi come dice lei ne guadagnerei in educazione, gentilezza, raffinatezza, anche per il bene di chi mi sta davanti. Vabbè. Allora facciamo così, apriamo il Parlamento, niente, è il mistero dovremo risolverlo. Ragazzi, di Veronica, prendo un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene, ma qui dobbiamo risolverlo. Veronica, mettiti l'anima in pace, dobbiamo fare una indagine segreta Tu comincia ad indagare, inizia a guinzagliare. Ma indagare? Ma io più che chiedertelo anche privatamente cosa devo fare? Cioè, non è che ti faccio la posta sotto casa. È malissimo. Che giornalista investigativo sei? Mamma mia, ragazzi. Vabbè, insomma. Ma non vuoi darci neanche un indizio? No, sentivo le tre mogli, dicevo, giustamente uno fa come Barba Blu, no? Piano piano li uccide e li mette nell'armadio, è così. No, non è così. Vabbè. Ho ottimo rapporto con tutte e tre, l'attuale e le altre. Vabbè. Vedi? Vabbè, allora, sì, vabbè. Na-na-na. Niente, ce la faremo, Veronica. Ce la faremo prima. Secondo poi me ce la puoi fare. In nome degli ascoltatori, cioè, non è che a noi non interessa entrare nelle vite private, ma come vedi, è una pulsione che proprio gli ascoltatori hanno. Non è una curiosità che dobbiamo soddisfare prima o poi. Non è che... Ma qualunque risposta io dessi sarebbe così. Sì, certo, poi ci sono le prove da portare. Capisci? Vabbè, ma l'indagine è partita. Siamo solo al 17 gennaio. Sarebbe inconsistente la mia risposta. Siamo solo al 17 gennaio. E questo ti capita. Abbiamo spesso una lunga sfida, il riscatto della sciocchina. Ecco, la sciocchina 1, mannaggia, ragazzi. Allora, vorrei subito chiedere a Bianconi come si sta in Parlamento, perché attenzione, oggi uno apre i giornali, dopo che ieri Repubblica dice che l'Unione Europea ci chiede dei soldi, una bella manovrina da 3,4 miliardi, la Stampa, Gentiloni ha risposto che ha deciso che non si farà, Repubblica, Padoan non l'ha escluse, Libero, Padoan la sta preparando. Ora io vorrei capire... Bianconi, Padoan l'ha già pronta. L'ha già pronta, fa Bianconi, Padoan l'ha già pronta. Aggiungere, attenzione. Ovviamente, cari italiani, voi ridete alle 6:39, ma tocca mettere mano al portafogli, quindi Bianconi. Questo è sono i risultati della politica ollata, purtroppo, dico purtroppo perché questo è l'interesse nazionale che le tocca, il debito pubblico con Renzi è andato continuamente aumentando, ha fatto questa politica dei bonus che era una spesa che secondo lui era buona, secondo altri meno, si è aggravato il deficit e la manovra va fatta, noi tanto che lo dicevamo che la manovra andava fatta, cioè che spendeva male e non contraeva la spesa. C'è una conseguenza logica, non è più una conseguenza politica. E si verifica che tante volte... E che vuol dire sì, ma che pagheremo? Nuove tasse? Che succede? Nuove tasse, per forza. Nuove tasse. Guardi che il denaro pubblico non esiste. Quando dicono c'è una manovra, significa che devono mettere mano al denaro dei privati e spenderlo pubblicamente. E qual è il prossimo appuntamento in cui potrebbero inserirci delle nuove tasse? Ora fa la manovra suppletiva. Basta fare una manovra suppletiva sul richiamo di Bruxelles. Una manovra suppletiva. No, abbiamo anche firmato, messo in Costituzione l'obbligo di attenervi vengono tre signori, ci mandano tutti a casa e amministrano come voglio loro. Abbiamo fatto tutto questo con le nostre. Ma già è vero che Bianconi è contro questi poteri forti. Sarà per Trump che ha dato un calcio in quel posto alla Merkel. Io posso essere per una... Non si sente più. Dove è andato? Non si sente più Bianconi. Aspetta che rimettiamo meglio il cellulare. Adesso ci dice di Trump. Veronica, ci sono i poteri forti che censurano. I poteri forti, no? Perché vai e viene Bianconi, viene. Strano, perché sono un posto di sentimento. Allora dico, per Trump non possono mai essere per una questione estetica. Ma per fatti contenutistici, Trump mette in discussione una vecchia Europa che sicuramente va cambiata. Hai capito, Veronica? È una questione di capelli, di pettinatura. Ci vuole un po' la misura su tutto. Veronica, dici. Siamo stati angosciati tutto il tempo con questa manovra finanziaria che era perfetta. Era tutto bellissimo, l'importante era andare a scorrere al referendum e votare sì e tutto sarebbe stato meraviglioso. Come vedi, questa manovra finanziaria non era così perfetta, c'erano un sacco di guai dietro, soltanto che si è dovuto aspettare che finisse la campagna referendaria, perché anche l'Europa che ha lasciato a Renzi questa zona, di questo raggio d'azione in cui potersi muovere per raccogliere consenso non servisse più, quindi questo era abbastanza inevitabile e eccoci qua. Ma comunque, a proposito di tasse, dovremmo tutti fare come a Conegliano Veneto, ragazzi, questa è una notizia vera che c'è sul Corriere della Sera. Signori, a Conegliano Veneto arrivano le tasse ai commercianti per la proiezione dell'ombra sul marciapiede. Hai un'insegna, cioè uno deve sperare che ci sia nuvolo, minchia, che non ci sia il sole, si sveglia e dice piove, piove. Guarda, l'hanno messa così. In realtà è una vecchia legge che io conosco, che dice che si misura soldi che si devono dare per l'insegna misurando la proiezione dell'insegna sull'asfalto, è chiaro. Da questo ha capito male e ha detto siccome fai l'ombra dammi torto. Ma esatto, ma sarà la proiezione fisica, cioè nel senso se uno occupa il marciapiede, a Conegliano Veneto pare che i commercianti debbano pagare l'ombra, la tassa sull'ombra. Ma l'estate vale lo stesso, no? L'estate quando fai calda ti metti all'ombra La verità, è che qui abbiamo, adesso lo faccio arrabbiare di brutto, qui abbiamo ecco, Bianconi, uno legge La Stampa, per esempio, sapete questa cosa che si sono inventati molte persone, fanno i ristoranti fai da te, anche Veronica Gentil lo fa ogni tanto, invita delle persone, ci invita. Cosa si stanno inventando alla Camera? Regolamento con la burocrazia che deve imporre che al massimo 10 coperti, si deve pagare con la carta di credito, stanno uccidendo anche questo settore con la burocrazia. È logico, certo, bravi. Perché c'è una... Ma io sono d'accordo con lei. C'è una politica che tende non a rilanciare l'innovazione, a normare tutto, la burocrazia. Logico, perché ci sono, cioè logico nel male, perché ci sono i ristoratori che si incazzano, ci sono quelli certo, che, c'è, posso, che posso c'è capire. Tutto quello che è nuovo e che rompe le cose stabilizzate certo. In Italia crea la rivoluzione. Certo, lasciare l'economy, lasciare l'economy e via. Ma noi siamo rovinati così, scusami, sciocchina, perché è da un pezzo che siamo rovinati. È bene che me l'accorgiate anche voi. No, perché sai, noi facciamo questo business qui a Roma, viene ogni tanto Alessandro Milan a Milano, si veste in livrea e mi serve a tavola quando faccio il ristorante e fai da te. Mi tocca pagare meno, cioè, mi hai dato della sciocchina e del cameriere, grandissima professione, peraltro, grandissima professione. Più che altro, la verità è che la fai male, perché anche su quella sappiamo, no? Che... Vabbè, cioè, faccio cadere il piatto, faccio cadere la tazza. Cioè, non mi sei adeguato, perché finché si tratta di parlare, no? Però chiacchiere distintivo. Poi dopo, quando ci sono i fatti... Eccola là, 2-0, 2-0. Quando fate sta robina, invitate anche meno. Ecco, cos'è sta robina? Adesso devo trattare sul prezzo qui con Alessandro, perché... Sta robina, comunque no, qua noi parliamo di Europa, di tasse, ma vedi qui, caro Milan, per Veronica diventerei grillino, questo è Andrea da Venezia. Poi Mattia riferisce... Io lo ringrazio, ma non è necessario però dirgli. Riferisce il messaggio, Mattia, per Veronica ci dice, sono alto Moro, palestrato, vabbè, insomma, anche super dotato, vabbè, Mattia. I coglioni non mancano mai, mancano mai. Comunque, un altro ascoltatore dice che parte la prima settimana decisiva per capire se è fidanzata, Veronica Gentile. Aspetta, Veronica, devo andare al traffico. Poi voglio chiedervi questa cosa, no, molto interessante, noi la approfondiremo, dei profughi. È giusto il progetto Minniti, e cioè che lavori socialmente utili, oppure qualcuno dice, ma come, così rubano il lavoro agli italiani, o come la fai, non c'è mai una soluzione buona, tra poco. A Milan, io voglio sentire il traffico! Milan, hai visto tutti questi mezzi busti televisivi, giornalisti, conduttori di talk show? Ridono sempre, anche quando annunciano disgrazie. Siamo rovinati, crisi economica, disoccupazione, ordine pubblico. E quelli ridono. Ma dove vivono? Sulla luna. Evviva la buona scuola! Ma meno male che li facciamo lavorare, così aumentiamo ancora di più i disoccupati italiani, va! Se anche Diego vorrà, io credo che il popolo napoletano tutto, non questo politico piuttosto quell'altro, non possa che volere la cittadinanza onoraria a un calciatore immenso che nel nostro cuore è ancora Maradona e meglio Pelé. E dire Maradona e meglio Pelé, ho detto tutto. Eccolo qua, De Magistris che vuol dare la cittadinanza onoraria a Maradona. Che c'è Bianco? No, vabbè, siamo sempre lì. Il popolo, il popolo. Pane e circense. Pane e circense. Vabbè, allora, Veronica, allora, come non chiederlo a una comunistona come te, frequentatrice di centri sociali, frequentatrice degli ultimi dagli ultimi, insomma, farli lavorare o no i profughi che arrivano qua? Hai sentito quello che dice, rubano il lavoro agli italiani ancora di più così? Certo che ho sentito, sai che soltanto la frase rubano il lavoro agli italiani mi viene la pelle d'oca. No, mi sembra una cosa assolutamente sensata, anzi il problema che ci si pone talvolta è quello appunto di farli lavorare gratuitamente per periodi troppo lunghi, perché chiaramente questo non è un incentivo all'integrazione, altrimenti li tieni come se fossero, no, carcerati. Per il periodo in cui la domanda d'asilo, mi sembra talmente una cosa ovvia, cioè, allora, una cosa anche li volete bighellonare, la parola bighellonare, no, tutto il tempo a dire che sono lì avanti e indietro, che non fanno nulla, che anzi delinquono perché si annoiano e stanno avanti e indietro a cercare il wifi col cellulare, perché questa è la narrazione che viene fatta. Sai che a Trieste, allora, ieri avevamo il sindaco di Trieste che vuole mettere il wifi sugli autobus e la Lega si è opposta, perché dice poi ci sono frotte di immigrati che stanno tutto il giorno sull'autobus. Ti ringrazio per questa perla, mi mancava. Non lo sai? No, lui grazie. Vuole mettere il wifi sugli autobus e la Lega ha detto poi troveremo frotte di immigrati che stanno sull'autobus tutto il giorno. Certo, avanti e indietro per connettersi col wifi. Certo. Ma sempre un pensiero lineare, la logica è l'importante. Sì, no, comunque, sembra un'ottima proposta, cioè, non vedo. Infatti, non lo so. Però sentiamo il buon Bianconi che ci dice. È una proposta che è stata fatta da me da altri da 5 anni. Quindi è una cosa fatta bene e logica. Non toglie il lavoro agli italiani. Queste sono le cazzate populiste che fanno tanta impressione, come quella dell'OiFi, no? E quella del bighello nave. È vero che come quella dei 35 euro. Voglio dire, questi vanno comunque, se non glieli dai i soldi li vanno a rubare. Allora siccome gli dai i soldi, anche per evitare che rubino, se gli fai fare i lavori socialmente utili, attento, che nessuno farebbe e che nessuno fa, perché ai comuni mancano le risorse. Mentre questi soldi sono dati in dotazione in forza dell'aiuto agli immigrati, è un altro capitolo di spesa. Sì. Non incide sul bilancio dei comuni e consente alle amministrazioni locali di fare lavori che nessuno fa. Ma poi infatti, ecco, lavori socialmente utili, diciamo, sono i lavori socialmente utili. Non è i lavori socialmente utili sono in genere lavori che servono per potare, il della cosa pubblica, potare i giardini. È utilissimo, non solo. Può aiutare un minimo di integrazione, perché è vero che questi stanno a bighello nave, è vero che non tutti sono persone da bene, ma è anche vero che se li lasci lontani dalla comunità, la cosa, la separatezza peggiora. Certo che non aiuta, evidente. Questo forse però, Bianconi, questo è da chiarire. Magari la gente pensa che licenziamo gli operai di un'azienda e mettiamo qui i profughi al loro posto, perché tanto è gratis. Non è così. Non è affatto così. E attento, Milan, non è così, perché i lavori socialmente utili non è quei lavori che dovrebbero fare le amministrazioni locali e non hanno le risorse per farlo. Ma forse non mi ha capito, sono io che ho detto infatti non è così, chiariamo. Ma che si è abituato a vedere il mio trattamento con te. Esatto, è talmente aretino in questo, quindi fumantino. Per emulazione, che giustamente. Subito pensa che debba combattere con... No, debba combattere... Siccome la logica sta diventando illogica, la bugia sta diventando verità, la destra diventa sinistra, la sinistra la destra, tutto. Io sono sempre in guardia. Sta sempre in guardia. No, ho detto non è così, cioè chiariamo, non è che togliamo, non è che togliamo il posto agli operai e mettiamo i prof. E però guarda che ci sono molte persone che dicono così, ieri anche il sindaco di Trieste, appunto, nel commentare questa cosa ha detto ma prima diamo il lavoro agli italiani. Non significa che sia proprio che le capisca proprio tutte, può anche non capire qualcosa. Va bene, che dici, Veronica? No, che dico, veramente non capisco cosa c'entra, perché in questi casi alimentare una narrazione completamente farlocca, non capisco che utilità abbia. Cioè, l'alternativa è che le stiano lì senza far niente. Ora mi chiedo a chi possa giovare. Quali sono i deterrenti politica dal farlo? Soltanto alla polemica politica, però senso l'unica funzione del giornalismo dovrebbe essere quella di spiegare la gente viene usata. La signora qui, la sento oggi per la prima volta molto vivace. Ma soprattutto è fidanzata, secondo lei, Bianconi? Questa qui? Veronica. Questa rimane fidanzata una settimana, questo è un indizio importante. Chi potrebbe mai chi potrebbe mai sopportarla più di una settimana? Già questa ce la dice lunga. Va no? bene, no, non c'è possibilità di fare il premio Giachetti oggi. Però Veronica, vuoi lasciarci con una solita frase in francese? Oui, je sais pas, qu'est-ce que tu veux savoir ce matin? J'espère qu'il sera une bonne journée pour tout le monde. Va bene, anche noi ce l'auguriamo. Travaille beaucoup, ma sciocchina, e c'est bien, on se voit. Va bene, io credo che questo abbia fatto innamorare almeno 2 o 3 nostri ascoltatori. Lo vedremo e lo scopriremo. Ringrazio Veronica Gentili, ringrazio Maurizio Bianconi e ci troviamo alla prossima. E buongiorno Milan, ma come parla bene in francese Veronica, bravo, bravo, bellissimo. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Anche stamattina andiamo a leggere i giornali di Milan, anche quelli di Roma, di Napoli. E me ci mettiamo pure quello della Sicilia, perché che se cazzo fanno schifo quello della Sicilia. 24 mattino. Siamo qui allora alle 7:21 minuti, cari ascoltatori, lo spazio dedicato alla lettura dei giornali, la rassegna stampa di 24 mattino. Siamo pronti, caro Peter? Andiamo a vedere che cosa ci offrono. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. In questo martedì 17 gennaio, intanto le aperture sono diverse, le notizie di prima pagina per il Sole 24 Ore, la fusione Luxottica e Silor, fusione da 50 miliardi, questo è il titolo di prima pagina, mentre per il Corriere della Sera duello con Berlino sulle auto. Poi c'è l'Unione Europea che chiede una manovra correttiva, questo titolava ieri Repubblica. La Stampa, nessuna manovra aggiuntiva. Gentiloni e Padoan preparano la lettera di risposta ai rilievi dell'Unione Europea. Il Messaggero anche no all'Unione Europea, niente manovra bis. Per il Giorno, l'Unione Europea ci prende a schiaffi. Il Manifesto, manovra spericolata. Mentre l'Unità, che ritorna in edicola, l'Europa attacca l'Italia. Per Repubblica, Agicom, uno stop a Vivendi. Questa è una notizia che a Repubblica, secondo il quotidiano di Mario Calabresi, la Agicom, l'agenzia delle comunicazioni, sarebbe pronta a dichiarare nulla l'eventuale OPA di Vivendi su Mediaset perché i francesi supererebbero i limiti della legge Gasparri. Mentre... parto da qui, gli immigrati nelle carceri costano 850 milioni l'anno, è l'apertura della Verità, anche perché il tema immigrati, il tema profughi, il tema farli lavorare è il tema che affronteremo e approfondiremo dalle 8:15 anche con Oscar Giannino e anche con le vostre telefonate, dalle 8 all'800 24 0024. Il tema è del lancio della proposta del ministro dell'interno Minniti, che domani farà la sua relazione in Parlamento, è quello dei lavori socialmente utili fatti dagli aventi di diritto, coloro che fanno richiesta per essere considerati profughi. Sapete che al momento per legge non possono lavorare mentre pende la loro richiesta, e invece Minniti vuole che possano fare lavori socialmente utili. C'è la polemica, Mario Giordano, per esempio, la prima pagina della Verità dice che all'apparenza è una buona notizia, ma in realtà se si va a scavare, secondo Giordano, non lo è proprio buona. Anziché farli bighellonare, lo so cosa state pensando, l'idea che gli immigrati lavorino anziché ciondolare per le vie della città una certa presa, e a prima vista sembra di buon senso, apparentemente non fa una piega, invece dietro questa presunta banalità si nasconde un'altra minaccia per gli italiani, perché è evidente che se gli alberi al parco li tagliano gli immigrati gratis, non li taglieranno più i giardinieri che lo facevano prima, regolarmente pagati. E se un richiedente asilo diventa cantoniere o in bianchino, archivista, operaio, vuol dire che ci sarà bisogno di un cantoniere in meno, di un in bianchino in meno, un archivista in meno, un operaio in meno. In pratica, per ogni senegalese o nigeriano che occupa un posto, ci sarà un piccolo artigiano che lo perderà. Un precario che resterà a casa, una famiglia che non saprà dove campare. Dove andranno a mangiare costoro? A casa del ministro Minniti? Ecco, questa è la domanda che si pone Mario Giordano all'inizio del suo articolo, titolato poi all'interno della Verità, dare lavoro a chi chiede asilo è un suicidio. Ed è la, come dire, opposizione, obiezione che ieri ci faceva anche il sindaco di Trieste, ed è l'obiezione che fanno alcuni. È un tema che affronteremo con due sindaci, il sindaco di Pesaro e il sindaco di Cascina, per capire se davvero è così o se c'è invece la possibilità di farli lavorare. Tra l'altro, sul tema immigrazione, oggi il giornale ha una notizia che viene messa in evidenza in prima pagina ed è un racconto, ovviamente, come si suol dire, anche tutto da verificare, ma il giornale dice lo abbiamo verificato, è il racconto di un profugo che parla in esclusiva, Giuseppe De Lorenzo è l'autore di questo articolo, e racconta lui, musulmano, 26 anni, partito dalla Libia, oggi vive in Italia, mi hanno offerto dei terroristi islamici $30,000 per venire in Italia e fare un attentato. Il racconto lo trovate a pagina 2 e 3 del giornale. Quanto ti hanno offerto? $30,000. Alcuni miei parenti avrebbero ottenuto questa cifra. Sarebbero diventati una sorta di garanzia. Se accetti $30,000 ma poi non compi l'atto terroristico, loro li uccidono. Come ti hanno contattato? Volevo fuggire dalla Libia. Non sono andata a cercarli, ne avevo bisogno di loro. Mi hanno contattato durante la prigionia a Zawiya. Mi hanno detto che se avessi voluto guadagnare molti soldi c'era questa possibilità. La maggior parte delle persone che gestiscono i traffici in Libia sono poliziotti e militari. Ma e tu ti sei rifiutato? Altrimenti non sarei qui. Da musulmano ho pensato che chi toglie la vita agli innocenti non è un uomo. Questo è il racconto, ripeto, da verificare, a un profugo pakistano che è partito dalla Libia e racconta del tentativo di renderlo un kamikaze. L'ISIS mi ha offerto $30,000 per farmi esplodere in Italia. Questo è il racconto che trovate a pagina 2 e 3 del giornale. Va bene, lasciamo questo tema che tanto lo approfondiremo dalle 8:15 anche con le vostre telefonate. Mi ha colpito invece quello che racconta la stampa e quello che sta per succedere in Italia. Attenzione, se voi credete alla sharing economy, se credete a questa economia della condivisione, come si potrebbe dire in italiano, se credete alle nuove opportunità, anche al sapersela cavare in momenti di crisi. E per esempio, molti hanno ben pensato da tempo di istituire nelle proprie case i cosiddetti ristoranti a casa, no? Quella forma di accoglienza per cui uno è bravo a cucinare, invita 10 persone, 15 persone nella propria dimora, magari con delle piattaforme, delle app, e tira su un po' di soldi facendo fruttare una propria arte, quella dell'arte culinaria, e cucinando. Ebbene, se ne sono accorti. E quando se ne accorge il legislatore, quando se ne accorge la burocrazia, nel giro di poco finisce tutto. La stretta sui ristoranti fai da te. Paolo Baroni racconta in prima pagina della stampa: quello che non è successo a Uber ora capita agli home restaurant, i ristoranti a casa. Arriva una legge, la prima in assoluto in Italia, che regola uno dei tanti rami in cui si è sviluppata la sharing economy. Quando sentite la parola regola in Italia vuol dire uccide, stritola con la burocrazia. E infatti le nuove regole: si accetteranno solo pagamenti online, si accetteranno solo se in una app apposita verranno registrati almeno mezz'ora prima di servire la cena. Devono essere i pagamenti fatti esclusivamente attraverso piattaforme online per tracciare tutto. Per poter svolgere le attività di home restaurant, le abitazioni devono possedere requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge e regolamenti vigenti. Ci sarà un tetto sui clienti, non si potranno superare i 10 coperti al giorno, 500 al massimo in 12 mesi. Il massimo di compenso è 5.000 euro l'anno. Per avviare l'attività occorre inviare al proprio comune la segnalazione certificata di inizio attività, la SCIA, acquisire l'attestato HACCP, l'obbligo di assicurazione a copertura degli eventuali danni relativi all'esercizio va stipulata una polizza per la responsabilità civile verso terzi. Bisognerà stare anche con un piede alzato mentre si cucina e ballare il tango se lo chiedono gli appositi burocrati. Per carità, lo so, vi sento commercianti, ristoratori che mi state insultando dicendo io ho una regolare attività, rispetto tutto e quindi... Vabbè, però bisognerà fare poi un discorso profondo sul tema della sharing economy, sul fatto che la gente in tempo di crisi si arrangia. Se no, va bene, normiamo tutto, regolamentiamo tutto, mettiamo 5.000 tasse, 5.000 regolamenti, strozziamo qualsiasi tipo di creatività in nome del ma io devo rispettare 4.800 codicilli e quindi anche costoro devono farlo, e quindi il risultato poi è lo stritolamento di tutto. La stampa racconta: se avete un home restaurant, il mio consiglio, chiudete tutto e inventatevi qualcos'altro in attesa che il legislatore se ne accorgerà. In genere se ne accorgono, sono lenti i burocrati, se ne accorgono tra 2 anni, però per 2 anni potete sopravvivere, poi cambierete tra 2 anni, dovrete sempre essere un po' più avanti della burocrazia. A proposito di burocrazia, va bene se no quello che succede sulle tasse, regolamenti, le puntigliosità, eccolo qua. L'articolo che mi fa più incazzare della giornata. L'articolo che, se siete alla guida, vi deve far tenere le mani ben strette sul volante e, mi raccomando, a colazione sempre oggetti contundenti che appoggiate lì a fianco. I coltelli per la marmellata e il burro a fianco un attimo. A Conegliano Veneto, nel Trevigiano, visto che la burocrazia impera, ci sono i negozianti in rivolta perché c'è la tassa sull'ombra. Vi giuro, la tassa sull'ombra è un'applicazione del decreto legislativo 93, del 93, numero 507, per gli amanti della precisione, per cui nella classifica dei balzelli più eccentrici e difficilmente sopportabili resterà insuperato il primato stabilito a Conegliano. Diversi commercianti si sono visti recapitare a Natale il bollettino con la singolare causale di pagamento, la tassa sull'ombra proiettata a terra dalle insegne dei negozi. Non vi salveranno neanche le nuvole, neanche se piove. La tassa sull'ombra s'ha da pagare. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. State ascoltando un programma offerto da Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Alessandro Milan, what else? Beh, insomma, cara ascoltatrice, però, grazie davvero. Mandate le vostre sigle, come sempre, al 349-238-6666 via WhatsApp. Allora, la tassa sull'ombra, non sull'ombra de Vin, come mi dicono molti. No, no, proprio sull'ombra a Conegliano Veneto. Ah, chissà, dopo chiederemo a Oscar Giannino. Forse arriva qua con un ombrello parasole per cercare di non pagare la tassa. Allora, L'Europa scriveva ieri, Repubblica ci chiede 3,4 miliardi di manovra correttiva. Che si fa? Beh, oggi il Sole 24 Ore con Beda Romano racconta di questo pressing europeo sui conti, la trattativa sulla correzione, la lettera di Bruxelles in arrivo dice che c'è un gap da 3,4 miliardi per il deficit. Ed è interessante leggere i giornali per capire che c'è chiarezza nella situazione attualmente. Fabio Martini, La Stampa, Gentiloni ha deciso, non ci sarà alcuna manovra correttiva. Repubblica, Roberto Petrini, pagina 7, Padoan non esclude la manovra correttiva. Libero, Francesco De Dominicis, pagina 8, Padoan è quasi pronto a varare la manovra correttiva. Ecco, orientatevi così, nel senso che ogni giornale ha il proprio retroscena. Ora, come faccio io a dire quale sia il più attendibile di questi? Leggiamo, se non altro, da Repubblica, che ha avuto il merito ieri di anticipare la notizia, Roberto Petrini, in pagina 7. Tutto è nelle mani del ministro dell'economia Padoan e del suo ragioniere generale Daniele Franco. La missione quasi disperata è recuperare nel giro di un paio di settimane 3,4 miliardi che la Commissione europea sta per chiederci con una lettera ufficiale. Padoan al TG3 non esclude, dicendo vedremo se sarà il caso di prendere ulteriori misure per rispettare gli obiettivi. Comunque c'è un occhio attento ai bonus, agli sconti fiscali per le imprese, ai finanziamenti di cui si può fare a meno senza compromettere equità e crescita. Si cerca disperatamente anche la strada più soft, il taglio dei due fondi per gli interventi infrastrutturali che superano per quest'anno i 2,9 miliardi e che potrebbero essere in parte sacrificati. Si cerca di vedere dove cominciare a tagliuzzare. Anche perché, signori, il fondo monetario, sono sempre su Repubblica, pagina 6, è stato un po' impietoso. L'Italia cresce 5 volte meno del resto del mondo. È il titolo di pagina 6 di Repubblica. Sono state tagliate le stime del PIL per il 2017, per il 2018. Padoan si dice sono un po' stupito. Comunque, rispetto ai calcoli di ottobre, scrive Valentina Conte, il Fondo Monetario taglia il PIL italiano di 2 decimi di punto nel 2017, addirittura di 3 decimi di punto nel 2018, mettendo quasi una pietra tombale sull'obiettivo dell'1% sfiorato a Roma nel 2016, ipotizzato quest'anno o al più il prossimo. Ora invece per il Fondo Monetario questa crescita dell'1% è decisamente in bilico, e stiamo parlando di una crescita dell'1%, non del 2, del 3. Il mondo, invece, cresce 5 volte più dell'Italia. Che ne so, Il mondo cresce del 3-4%. L'area euro cresce in media dell'1,6%, la Francia dell'1,3%, il Canada dell'1,9%, gli Stati Uniti del 2,3%, la Spagna, giusto per vedere un paese simile al nostro, spesso c'è 2,3% di crescita, noi lo 0,7%. E va bene. D'altronde, Sergio Rizzo oggi torna in prima pagina del Corriere sul cavallo di battaglia delle province. Ah, le province, che lo dico per l'ennesima volta quasi a fare noia a me stesso. Non ce l'ho contro le province, non ho nulla contro le province. Mi sono perfino simpatica, mi ci sono affezionato alle province in questa 194esima settimana decisiva per abolirle. Ma è l'emblema, la provincia italiana, l'emblema di qualcosa che tutti i politici giudicano inutile da decenni e nessun politico riesce a togliere. Allora, se tutti i politici giudicano inutili e dicono le aboliremo da 20 anni e non sono in grado di farle, è l'emblema del gattopardismo. Anzi, come scrive oggi Sergio Rizzo in prima pagina del Corriere, è anche più del gattopardismo questo, delle province, questa storia delle province. Ecco, sono inutili, aveva sentenziato 20 anni fa Berlusconi. È qualcosa di più del gattopardismo, perché ora si vuole tornare indietro addirittura. Qualcuno ha proposto, il ministro Costa, ma ora anche il presidente della provincia di Pescara, Antonio Di Marco del PD, di tornare alle elezioni dirette del popolo. Sotto la calda e rassicurante coperta del voto popolare, siamo oltre al gattopardo, scrive Sergio Rizzo. Non più tutto cambi perché tutto resti uguale, ma tutto cambi perché tutto torni come era un tempo. E poi c'è un lungo excursus che continua a pagina 28 e racconta la storia di un provvedimento sempre annunciato e mai fatto. Invece ci sono molti articoli sulla fusione, anzi la maxi fusione, come viene definita, una fusione da 50 miliardi tra il gruppo Luxottica di Del Vecchio e Essilor in Francia. Operazione tra uguali, così viene spiegata. Infatti Del Vecchio rilascia un'intervista al Corriere della Sera, viene intervistato da Maria Silvia Sacchi. Ho realizzato il sogno di una vita, il mio gruppo sarà più forte, i tempi maturano, la concorrenza evolve. E alla domanda, beh, ma vi siete venduti ai francesi? Risponde Del Vecchio, assolutamente no. Capisco che il meccanismo dell'operazione non sia di immediata comprensione. Il nostro obiettivo è costituire un gruppo pienamente integrato dalla materia prima dell'occhiale completo e coprire in maniera integrata tutti i canali, dal wholesale al retail fino all'e-commerce. Abbiamo quindi deciso di diluire la nostra partecipazione in un'entità molto più grande. Beh, ma è Essilor a diventare italiana o Luxottica che diventa più francese? Ritengo sia sbagliato porre la questione in questi termini, risponde il fondatore di Luxottica. Siamo tutti europei, ma è soprattutto il mercato a essere globale. Non mi aspetto contrapposizioni tra l'anima francese e l'anima italiana nelle due società, ma solo un valore aggiunto dalla loro combinazione. Insomma, è il sogno della mia vita, così dice Del Vecchio. È un'operazione per restare competitivi sul mercato globale, anche se Francesco Spini sulla Stampa racconta che dietro a questa mossa strategica c'è anche certamente quello di garantire un futuro alla creatura, neutralizzando le liti tra gli eredi. Del Vecchio, che ha 81 anni, ha fondato ad Agordo nel 61 Luxottica, pensa anche a un domani quando lui non ci sarà più e l'idea, racconta Francesco Spini sulla Stampa, è quella di creare qualcosa di veramente grande nel mondo degli occhiali e di neutralizzare anche, sono anche messe in grafica tutte gli eredi, insomma la prima moglie di Leonardo Del Vecchio, Luciana Nervo, dalla quale ha avuto 3 figli, poi Nicoletta Zampillo, sposata 2 volte, da lei ha avuto 1 figlio, poi c'è Sabina Grossi, che è la ex compagna di Del Vecchio, non si sono mai sposati ma hanno avuto 2 figli. Allora capite che l'impero è molto ramificato. un po' come quello di Mauro Meazza. Buongiorno caro Mauro. Buongiorno. No, non mi ero mai accorto né di avere un impero, ma che ne sai, né che fosse molto ramificato. Comunque lo prendo come un augurio, chissà. Sì. Come le stime del Fondo Monetario, insomma, sì, un po' certo. Le tiriamo poco di. Senti, voglio cominciare dal caffè oggi. Sì, oh. Oh, perché insomma, a quest'ora il caffè ci sta. Allora, se tu leggi come devi fare avidamente le pagine di Finanza e Mercati, sì. E nella fattispecie la pagina che si occupa di materie prime a cura di Sissi Bellomo, ebbene apprenderai che c'è un surriscaldamento dei prezzi del caffè, stanno salendo. E quindi potrebbe accadere, non è una stima come quella dell'FMI, ma insomma potrebbe accadere che poi alla tazzina... Te lo dico, diciamo, alle 9 al bar. Dal raccolto alla tazzina, ma vabbè, ma se di solito pago io, come fai? Allora, vabbè, me lo direi tu. No, te lo dico, informato. Mauro, oggi devi pagare di più, ti dirò così. Beh, ecco, potrebbe essere così. No, non è così immediato, ma i prezzi si stanno surriscaldando. Oh, oggi importante come sempre leggere religiosamente norme e tributi, soprattutto perché c'è la versione definitiva del modello 730. Uh-huh. E allora, sai che 730 è il modello più utilizzato in assoluto, sai che è anche cambiata la data di consegna, ad esempio per chi se ne occupa da solo col precompilato, andiamo al 23 di luglio. Tutti i particolari su norme e tributi, piccolo insertino qui, Radio Fisco, abbiamo il dato del TFR di dicembre, non voglio dire altro. Naturalmente martedì 15 c'è il condominio, certo. La pagina del condominio, attenzione, non è che se ti distacchi per via delle termovalvole poi non paghi più le spese condominiali, la Cassazione dà una tirata d'orecchi, leggi e medita su questa vicenda. E poi naturalmente lo scontro, ma lì torniamo in finanza, leggi avidamente, lo scontro tra Italia e Germania sulle automobili, sì. Perché insomma lì c'è tutto un tira e molla tra le norme europee e le norme nazionali e spesso chissà perché le due cose non si parlano. Altro non ti vuol dirmi, congratulo, perché mi pare che ieri sera ci sia stata una buona prestazione. Sì, in rimonta. Pensavo addirittura di vincerla, sai, l'arroganza ogni tanto. Addirittura, limiti, certo, sì. Certo, va bene. Lecito sempre sognare. Per intanto, caro Alessandro, traffico! Alessandro, sono il Papa Francesco e te volevo dire che tu sei un po' il Maradona dell'informazione, però non parlare male del PIB del 10 perché ti aspetta un pugno. Va bene, ciao. Sono contento, abbiamo sentito se c'è traffico anche nel vostro garage, nelle rampe di casa e quindi ora siete soddisfatti. Allora, diceva giustamente Mauro Meazza che c'è una forte diatriba sulla questione delle auto, le emissioni gas tra Germania e Italia. Il Corriere della Sera mette questa notizia a pagina 2 e 3 per raccontare, insomma, che Gentiloni pare un po' arrabbiato. Gentiloni dalla Merkel, pretendiamo rispetto. Questo è il titolo del retroscena di pagina 5 del Messaggero. Il Premier sospetta che il caso Fiat sia stato innescato addirittura a fini elettorali per la Germania. E domani Gentiloni andrà appunto dal Premier, dalla Cancelliera tedesca Angela Merkel, e nel colloquio saranno affrontati anche il nodo del Monte Paschi, il no all'austerity, ma anche la questione Fiat. A proposito di imprese, o meglio di aziende, Repubblica apre invece su questo scontro Italia-Francia. Al centro c'è Mediaset, il tentativo di assalto di Bolloré, come viene definito a pagina 3, e racconta Repubblica in prima pagina che l'Agicom è pronta a dare uno stop a Vivendi di Bolloré. La corsa di Vivendi alla conquista di Mediaset sembra finita in un cul-de-sac. Così titola, scrive Repubblica nell'articolo di Claudio Tito. La scalata si trova infatti un muro difficile da superare, è la legge Gasparri ed è l'autorità delle comunicazioni. Ci sono quattro parole che costituiscono la vera barriera: abuso di posizione dominante. L'Agicom dal 21 dicembre ha avviato una verifica sul rastrellamento effettuato in borsa delle azioni delle TV berlusconiane da parte di Bolloré. Le conclusioni arriveranno il 21 aprile, ma i lavori preliminari svolti dai quattro commissari hanno già offerto alcuni punti fermi. Il primo è che un'eventuale OPA, cioè un'offerta di pubblica d'acquisto di Vivendi, non sarebbe giuridicamente accettabile. Sostanzialmente l'azienda francese non può andare oltre il 30% che la colloca come seconda azionista di Mediaset dietro Fininvest. Poi c'è la lunga ricostruzione, ma questo è il senso della notizia, che viene data in esclusiva a pagina, prima pagina e poi pagina 3 di Repubblica, e vedremo di che si tratta. Lascio la politica italiana è in una fase di stallo noiosissima, noiosissima. Pensate che la notizia più importante oggi dal Corriere della Sera è data dallo strappo di De Luca. Pare che De Luca voglia guardare oltre il Partito Democratico e fare un movimento a sua immagine, visto che nasce Campania Libera. E oggi Marco De Marco racconta sul Corriere della Sera di un De Luca che guarda con attenzione a tutto ciò. È molto più interessante sapere che succederà nei prossimi giorni negli Stati Uniti, dove Donald Trump il 20 gennaio si insedierà, come è tradizione, il 20 gennaio ogni 4 anni si insedia il neopresidente americano, e ha rilasciato una prima intervista al quotidiano tedesco Bild e al britannico Times. E cosa ha detto Donald Trump? Beh, ha tuonato contro l'Europa. Lui vuole, intanto dice che la NATO è obsoleto, l'Unione Europea è a trazione tedesca, vuole un'Unione Europea, o meglio, secondo molti analisti, Trump vorrebbe un'Europa divisa, non vede un Occidente unito, vede tanti stati con cui trattare. Per lui non esiste, racconta per esempio Norbert Röttgen, presidente della Commissione Affari Esteri del Bundestag, Parlamento tedesco. Per lui non esiste un unico Occidente e siamo tutti concorrenti. Questo è Donald Trump, che ha rilasciato le prime interviste anche per Il Giorno. Lo faccio vedere sulla mia pagina Facebook. Trump a fondo contro la Merkel, l'Unione Europea asservita agli interessi tedeschi. Beh, qualcosa che si è già sentito anche da queste parti, sta di fatto che questa è la linea di Trump. Vi segnalo in conclusione notizia di cronaca. Attenzione, vi ricordate la vicenda di Nola con i pazienti stesi al pronto soccorso per terra perché non c'erano le barelle, le tighe per curarli? Ebbene, in Lombardia c'è una stretta in arrivo. Basta video in ospedale. La regione Lombardia, dopo il caso di Nola, anche su richiesta dei medici, dice non si potranno filmare i colloqui con i medici per metterli in rete. Si possono filmare al limite per scopo privato, ma non si può entrare in un ospedale, filmare, mettere tutto in rete, mettere sui social. C'è un diritto alla privacy e poi i medici dicono: se la gente, se i pazienti filmano i colloqui con noi, c'è anche il rischio che il medico applichi la cosiddetta medicina difensiva per cautelarsi da eventuali cause. Insomma, i pazienti fanno i video in ospedale, non si può diffonderli in rete. A questo pensa la regione Lombardia. Siamo velocemente alla carta costa. L'articolo più inutile scovato sui giornali è la finta guerra del rap. Ci sono J-Ax e Fedez da una parte che hanno litigato contro Gué Pequeño e Marrakesh, ma sono cose incredibili. Come finirà questa lite? Come finirà? Ma chi se ne frega!